ad alta voce. Valerio Aprea legge Alberto Moravia. Il pensatore. Al ristorante caratteristico romano, anzi trasteverino, Marforio, da principio tutto andò bene. Avevo la testa vuota e sonora come quelle conchiglie che si trovano in riva al mare e il verme che ci stava dentro da chissà quanto tempo è morto. E quando i clienti mi ordinavano spaghetti al sugo, la mia testa echeggiava fedelmente spaghetti al sugo. E quando ordinavano zuppa inglese, la mia testa sempre echeggiava zuppa inglese e niente di più. Insomma, non pensavo niente. Ero cameriere dentro come di fuori. Così cameriere che la sera, sul punto di addormentarmi, continuavano a risuonarmi nella testa i vari spaghetti al sugo, zuppa inglese, che avevo registrato durante la giornata. Ho detto che avevo la testa vuota, ma forse sarebbe più esatto dire che avevo la testa congelata, come l'acqua di certi laghetti di montagna che a primavera sotto il sole, da ghiaccio che era, ridiventa acqua e un bel mattino ricomincia a muoversi e ad incresparsi sotto il vento. Insomma, vuota o congelata che fosse la mia testa, ero proprio un cameriere perfetto. Tanto che una volta sentì una ragazza al ristorante dire al suo compagno, indicandomi, «Ma guarda quel cameriere lì, che faccia di cameriere che ci ha! Quello, per esempio, non potrebbe essere che cameriere. È nato cameriere e morirà cameriere!» Come poi sia la faccia da cameriere, valla a sapere. Probabilmente la faccia da cameriere è proprio la faccia che piace ai clienti, i quali non hanno da avere la faccia da clienti, perché non hanno da piacere a nessuno, mentre i camerieri, se vogliono continuare a fare i camerieri, hanno da avere proprio la faccia da camerieri. Basta, per un anno filato non pensai mai nulla ed eseguii gli ordini che mi davano i clienti. Anche quando un cliente sgarbato mi gridava «Ma sei scemo o ci fai?» la mia testa echeggiava fedelmente «Ma sei scemo o ci fai?» e niente di più. Al ristorante, si capisce, il padrone era contento di me. Tanto che spesso diceva agli altri «Non voglio storie, prendete esempio da Alfredo, mai una parola di troppo, eccolo il vero cameriere». Cominciò una sera, proprio come il ghiaccio che al sole si squaglia e ridiventa acqua che si muove e scorre. Un cliente vecchio ma gargante, tutto riccio e brizzolato, come se gli avessero spruzzata la neve in testa, con una faccia nera di caprone, cominciò a trattarmi male, forse per fare impressione alla ragazza con cui stava, una biondina insignificante dattilografa o modista. non era mai contento e come gli portai il piatto che aveva ordinato, prese ad inveire. «Ma che roba è questa? Ma dove siamo? Non so chi mi tiene dal tirarvi tutto quanto in faccia!» Aveva torto, perché aveva chiesto coda alla vaccinara e io coda alla vaccinara gli avevo portato. Questa volta, però, invece di limitarmi, come al solito, ad echeggiare le sue parole, mi sorpresi a dirmi «Ma guarda che faccia di caprone che ci ha questo cornuto!» Non era un gran pensiero, lo riconosco, ma per me era importante, perché era la prima volta che pensavo da quando servivo nel ristorante. Andai in cucina, cambiai i piatti, gli portai due porzioni d'abbacchio alla cacciatora e pensai di nuovo: «Tiè, e che tu possa strozzarti!» Un secondo pensiero, come noterete, anche questo non un gran pensiero, ma insomma un pensiero. Da quella sera cominciai a pensare. Voglio dire che cominciai a fare una cosa e pensarne un'altra, che è poi, credo, quello che si chiama, appunto, pensare. Domandavo, per esempio, inchinandomi, «I signori comandano?» e dentro di me pensavo, «Ma guarda quel paino che collo lungo ci ha! Sembra una papera!» Oppure dicevo, tutto premuroso, «Formaggio, signora?» e pensavo invece, «Ci hai i baffetti, bella mia! Te li scolorisci, ma si vedono lo stesso!» Il più delle volte, però, mi frullavano per la testa minacce, ingiurie, parolacce, insulti. «Cretino, scemo, morto di fame, te se possa seccare la lingua, li mortacci tuoi!» e via dicendo. Era più forte di me, mi bollivano continuamente nella testa come fagioli dentro una pentola. Finalmente mi accorsi di concludere mentalmente le frasi che dicevo con la bocca. Mettiamo, interrogavo, «Olio e limone?» e finivo dentro di me, «In faccia a te, brutto scemo?» Oppure domandavo, «Lei conosce le nostre specialità?» e finivo, «La roba cattiva e il conto salato?» Ora, tutto ad un tratto, scoprii che queste frasi non le finivo più con la mente, bensì con le labbra, seppure in tono più basso, anzi bassissimo, in modo da non essere udito. Insomma, parlavo, sia pure con prudenza. Dunque, ricapitolando, prima non avevo pensato affatto, poi avevo incominciato a pensare e adesso pensavo ad alta voce, ossia parlavo. Ricordo benissimo come andò la prima volta che parlai. Una sera, di sabato, venne a sedersi ad uno dei miei tavoli una coppia proprio da sabato. Lei doveva essere una di quelle, ossigenata, sfacciata, formosa, alta, tutta dipinta e profumata. Lui, un biondino, con la faccia rossa, il naso pizzuto, i capelli ricci, basso, con le spalle troppo larghe, vestito di blu, ma con le scarpe gialle. Lei doveva essere del nord, lui parlava con gli U stretti, come parlano a Viterbo. Lui prese la carta, come se fosse stata una dichiarazione di guerra, e la guardò, brutto, un lungo momento, senza decidersi. Poi ordinò per se stesso tutta roba sostanziosa, spaghetti alla carbonara, abbacchio con patate, puntarelle e alici. Lei, invece, roba leggera, gentile. Scrissi le ordinazioni sul taccuino e mi avviai verso la cucina. Ma Avviandomi, non potei fare a meno di gettare un'occhiata a lui e mi accorsi che le mie labbra dicevano in un sussurro, ma chiaramente: «Che faccia da burino!» Lui, che stava tuttora studiando la carta, non se ne accorse, ma lei, fina di udito come tutte le donne, sobbalzò sulla seggiola e mi guardò con occhi sbarrati. Aveva sentito. Andai in cucina, gridai con quanta voce avevo: «Un consomè e una spaghetti alla carbonara!» E poi tornai a prendere posizione contro la parete, a poca distanza da loro. Adesso lei rideva, rideva e rideva, premendosi il petto con la mano, scarlatta in viso. E lui, impermalito, si chinava avanti. Doveva domandarle perché ridesse, ma lei continuava a ridere, scuotendo il capo e premendosi il petto con la mano. Finalmente lei si calmò un poco, si chinò a sua volta e disse qualche cosa indicandomi. Lui si voltò e mi squadrò. Finsi di girare gli occhi altrove e poi riguardai e vidi che lei aveva ricominciato a ridere e che lui mi fissava a testa bassa, simile ad un montone che stia per avventarsi, con due occhi terribili. Finalmente mi chiamò: «Cameriere!» Lei smise di ridere e io mi avvicinai senza fretta. Avvicinandomi, sebbene avessi un po' di paura, non potei fare a meno di mormorare di nuovo, con convinzione: «Sì, proprio una faccia da burino!» Poi mi presentai con un «Comandi!» E lui alzò gli occhi verso di me e disse minaccioso: «Cameriere, poco fa voi avete fatto un apprezzamento!» Finsi di cascare dalle nuvole. «Apprezzamento? Non capisco!» «Sì, avete emesso un giudizio! La signora ha udito!» «La signora avrà udito male!» «La signora ha udito benissimo!» «Non capisco! Forse il signore non vuole più gli spaghetti? Possiamo cambiare?» «Cameriere, voi avete fatto un apprezzamento e lo sapete!» A questo punto lei si chinò e pregò: «Guarda, è meglio che lasci correre!» Lui disse allora: «Chiamatemi il direttore!» Mi inchinai e andai a chiamare il direttore. Questi venne, ascoltò, parlò, discusse, mentre lei continuava a ridere e a ridere, e lui si faceva più brutto che mai. Poi il direttore venne da me e mi disse a bassa voce: «Adesso servili e basta, ma guarda che se ne fai un'altra come questa sei licenziato!» Ma io... «Mosca! E fila!» Così li servì, in silenzio, ma lei continuò a ridere per tutto il pranzo e lui quasi non toccò cibo. Alla fine, senza prender frutta e senza lasciar mancia, se ne andarono. Ma lei continuava ancora a ridere, perfino nell'ingresso. Dopo quella prima volta, invece di correggermi, peggiorai. Ormai non pensavo quasi più, parlavo. Nei giorni che c'era poca gente e i camerieri stanno in piedi tra i tavoli o lungo le pareti, oziosi, mi accadeva di parlare da solo, fitto fitto, muovendo le labbra, così che gli altri se ne accorgevano e mi dicevano, ridendo: «Ma che dici, le preghiere? Reciti il rosario?» No, non dicevo le preghiere, non recitavo il rosario, ma guardando una famiglia di 5 persone, padre, madre e 3 figli piccoli, mormoravo: «Lui non vuole spendere perché è avaro, oppure perché non ce li ha. Ma lei è una scema, con la testa piena di grilli, e ha ordinato tutta roba costosa, primizia, aragosta, funghi, dolce. Lui ci sforma e morde il freno. Lei maligna, ci gode a vederlo soffrire, intanto i bambini fanno i capricci e lui passa un brutto momento.» Oppure studiavo la faccia di un cliente che aveva un grosso porro in cima alla fronte: «Ma guarda che patata che c'ha quello sulla fronte! Deve essere una sensazione strana toccarsela e sentirla così grossa. E come fa a mettersi il cappello? Se lo calza sulla patata oppure se lo tiene sulla nuca con la patata di fuori?» parlavo, insomma, da solo. E più parlavo da solo, meno parlavo in compagnia. Intanto il padrone non mi additava più ad esempio, anzi, mi guardava storto. Penso che mi considerasse un po' matto e che, insomma, aspettasse la prima occasione per mandarmi via. L'occasione venne. Una sera il ristorante era mezzo vuoto. L'orchestra trasteverina cantava anima e core ai tavoli deserti e io mi torcevo e sbadigliavo davanti a una gran tavola riservata di 10 posti. I clienti che avevano prenotato non si vedevano. Sapevo però chi erano e non mi aspettavo niente di buono. Eccoli finalmente che entrano nello stanzone fortemente illuminato. Le donne in vestito da sera, spiritose, eccitate, parlando ad alta voce, la testa voltata all'indietro, gli uomini seguendole, tutti in blu scuro, le mani in tasca, la pancia in avanti, mosci e sufficienti. Era quella che si chiama della bella gente, sicuro. L'avevo sentito dire una volta ad un paino mentre li guardava. Hai visto? Stasera c'è della bella gente. Comunque, belli o brutti che fossero, a me non mi andavano giù per un sacco di ragioni. La principale era che mi davano del tu. Porta una seggiola, dammi la carta, muoviti, fa, vieni, corri. Mi davano del tu come se fossimo stati fratelli. E io invece non mi sentivo fratello di nessuno, meno che mai di loro. Davano, è vero, del tu a tutti, anche agli altri camerieri e perfino al padrone. Ma a me non mi importava. Dessero pure del tu al Padre Eterno se volevano, ma a me no. Dunque entrarono e per prima cosa cominciò la commedia dei posti. Giulia si mette lì, Fabrizio qui, Lorenzo accanto a me, Pietro lo voglio io, Giovanna tra noi due, Marisa a capotavola. Finalmente, come Dio volle, ciascuno trovò il suo posto e allora avanzai io con la carta e la diedi a quello che stava a capotavola, uno grasso, calvo, con l'occhio spento, il naso a becco e la gola bianca e delicata ripassata al borotalco. Questi prese la carta e cominciò a perlustrarla dicendo «Allora, che ci consigli?» Pensai che mi dava del tu e mormorai «Becca morto!» Ma lui per fortuna non mi udì, per via dello schiamazzo che adesso facevano gli altri accapigliandosi sulla questione del menù. Chi voleva mangiare spaghetti e chi antipasto, chi voleva le specialità romane e chi non le voleva, chi voleva il vino rosso e chi il bianco. Soprattutto le donne facevano un baccano del diavolo come tante galline che si spollinano in un pollaio prima di dormire. Non potei fare a meno di mormorare tra i denti mentre mi chinavo dietro di lui. Ma guarda un po' che galline! Dovette sentirmi perché trasalì e domandò: Che dici, gallina? Sì, spiegai, c'è la gallina lessa. Ma che gallina lessa? Gridò uno. Vogliamo mangiare alla romana! Fave al guanciale, pagliata. Ma che è la pagliata in sostanza? La pagliata, disse quello che leggeva la carta, è l'intestino del vitellino di latte che non ha mai mangiato erba, cotto con tutto quello che c'è dentro, ossia con gli escrementi. Escrementi, che orrore! È quello che ci vuole per voi altri, pensai, o meglio, mormorai, chinandomi. Questa volta lui sentì qualche cosa, perché domandò, quasi incredulo. Cosa? Io non ho parlato. Tu hai parlato e hai detto qualche cosa, rispose lui con fermezza, ma ancora senza collera. Intanto non so come si era fatto silenzio, non soltanto a quel tavolo, ma anche nel ristorante. Perfino l'orchestra, per una combinazione, aveva interrotto di suonare. In questo silenzio io mi sentii dire, a bassa voce, ma chiaramente, «E dagli col tu, becca morto!» Subito lui saltò su con violenza inaudita. «Becca morto a me! Ma lo sai con chi parli?» Io non ho detto nulla. «Becca morto a me! Ma scalzone, farabutto, canaglia, ora ti insegno io!» Intanto si era alzato, mi aveva afferrato per il bavero, mi aveva sbattuto contro la parete. Quelli del tavolo si erano alzati anche loro in piedi, e chi cercava di metter pace, e chi invece inveiva contro di me. Tutto il ristorante, poi, guardava dalla nostra parte. Io mi scaldai e dissi, respingendolo, «Io non ho detto nulla, giù le mani!» «Ah, non hai detto nulla, non hai detto nulla!» «Non ho detto nulla!» ripetei svincolandomi, e poi, con voce più bassa, «Becca morto!» Così, per la seconda volta, la parola mi era sfuggita. Per fortuna arrivò di corsa il direttore, pieghevole come un giunco, strisciante come una serpe. «Prego, commendatore, prego, prego!» Il commendatore davvero facchino urlava, «Ma io gli spacco la faccia!» Il direttore mi prese finalmente per un braccio dicendo «E tu vieni con me!» Ancora del tu. Mentre attraversavamo la sala con tutta la gente che si alzava in piedi per vederci meglio, non potei fare a meno di pensare ad alta voce. «Ecco un altro becca morto che mi dà del tu!» Lì per lì lui non disse nulla, ma come fummo in cucina, a porta chiusa, mi gridò in faccia. «Allora tu dici becca morto ai clienti e poi lo dici anche a me!» «Ma io non ho detto nulla, becca morto!» «Insisti! Ma il becca morto sei tu, bello mio! E te ne vai subito!» «Va bene, me ne vado, becca morto!» Insomma, le labbra mi si muovevano mio malgrado, senza che potessi impedirlo. Mi ritrovai in strada che protestavo quasi ad alta voce, «Danno del tu, come se fossimo fratelli, e chi li ha mai visti né conosciuti? Perché non tengono le debite distanze?» In quel momento una guardia, vedendo che parlavo solo, si avvicinò e mi interpellò. «Hai bevuto, eh? E com'era? Abboccato o asciutto? Gira al largo, vattene, qui non ci puoi stare!» «Ma chi ha bevuto?» protestai. E subito dopo la parola mi uscì di bocca, la stessa che mi aveva fatto cacciare dal marforio. Avrei voluto riacchiapparla come una farfalla che scappa fuori dal berretto. «Eh sì!» Mi era sfuggita e ormai non c'era più niente da fare. Dunque, arresto per oltraggio ad agente, notte in guardina, processo, condanna con la condizionale. Uscito di prigione, mi accorsi che la testa mi si era di nuovo congelata. Intontito, attraversavo la strada all'altezza di Ponte Vittorio quando una macchina per poco non mi schiaccia. Non contento, mentre ancora tremavo, l'autista si affaccia e mi urla «Morto de sonno!» Lo guardai che si allontanava, mentre la mia testa echeggiava fedelmente, tale e quale come un anno prima. «Morto di sonno! Morto di sonno! Morto di sonno!» Valerio Aprea ha letto Alberto Moravia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad altavoce @rai.it.